siamo una famiglia noi, ma secondo te siamo una famiglia noi? Hai capito quello che ti ho detto, ma siamo una famiglia sì o no? Fammi sì con la testa se hai capito o no se non hai capito. Oscar, stai parlando con me? No, stavo parlando da solo. Che ti stavi dicendo? Niente. Cosa? Siamo una famiglia, sì o no? Chi? Chi? Noi due, chi? Noi due, chi? Se siamo una famiglia. Allora? È un momento. E che ci vuole? Sto pensando. Ci devi pure pensare. È certo. Certo che siamo una famiglia o certo che ci devi pensare? Tesoro, non ti senti bene? Vogliamo cercare una panchina? Ci mettiamo lì? Sì o no? Ma mi devi far sudare. Io una domanda facile ti ho fatto. E te l'ho detto. Che cosa? Certo. Certo che? Siamo una famiglia, certo. Oh, ci voleva tanto. Se ti dicevo no? Ma ancora? Se ti dicevo no? Ma io una domanda facile ti ho fatto, che potevi rispondere solo in una maniera. Ci volevamo meno bene. Tutto a posto, dai. Tutto a posto, basta. Basta. La tengono tutti quanti una famiglia, no? No, non è vero. Io sì. Gli orfani non hanno una famiglia. Sono orfano io. E ci si abituano perfettamente. Sono orfano io. Era solo per considerare le cose da un altro punto di vista. Sono orfano? No, direi di no. Ah, meno, fortunato. E meno male. Pure tu sei fortunata. Molto fortunata, molto. Sì, non ci stavi io. Che famiglia tenevi tu, Ricordati che le famiglie mamma, papà, bambino, cagnolino, viste da fuori possono sembrare il paradiso, ma viste da dentro solo l'inferno. E per forza deve essere così, ma? No, però tutto questo qualche volta mi aiuta a illudermi che non ci stiamo perdendo niente. Aiuta. Perché me l'hai chiesto? Ho già scuola, ci hanno dato. No, questo scuola... Beh, tranquillo, capito? Non ti muovere, stai dritto, non fare questi gesti. E poi, no, scuola con la C, ripeti. Oggi ci hanno dato, descrivi la tua famiglia. A scuola? Dove? In classe ci hanno dato, descrivi la tua famiglia. Me l'ha data la professoressa Enza. Sì, Enza. Descrivi la tua famiglia. Io ho fatto uno svolgimento di 10 disgrazie di altrui appassionano più di ogni altro argomento. Di più non mi veniva. Bravo, ho scritto. Bisogna difendersi dalla curiosità malata. Non dobbiamo pestare il fianco alla morbosità di certe capere. Che hai detto? Le capere erano quelle donnette che andavano nell'antichità a pettinare le signore a casa e sapevano i fatti tutto quanto. Ma lo vuoi sapere che ho scritto? Più te ne guai, più loro sono contente. Dimmi. La mia famiglia è composta da me e da mia madre e da mia nonna quando andiamo a Natale ad acciaro per le feste, basta. Ma c'è stramai i cazzo loro. Com'è brutto quando dici malparole? Capere. Sono brutto in malparole. Brutta, infatti, tu non le devi dire mai. No, mai. Perché sono brutte. Bravo, mai, ma mai. Che noi non ci dobbiamo mai livellare in basso. Noi non ci dobbiamo mai livellare in basso. Mai, bravo, mai. Bravo. Tu me l'hai detto. Ho detto così? Sì. Ho fatto bene. ma la maestra Enza ha detto che ci porta a Pompei. Descrivi la tua famiglia. a vedere gli scavi. Pompei. Prima però ha detto devo vedere quando costa il biglietto. Il biglietto. Per il pullman. Come il biglietto? Il biglietto per il pullman. E la cassa scolastica? E che ne so io? Oscar, tu lo sai che quando la professoressa Enza ti chiede i soldi del biglietto, tu lo sai che cosa devi risponderle, vero? Io? Due parole, cassa scolastica. No. Cassa scolastica. Io non ci dico niente, ci parlo tu. Tra maestre vi capite meglio. Oscar, io non sono una maestra, va bene, anche lei lo è, ma comunque... Ma guardami, Oscar, ho l'aria di essere una maestra io? No. No. Vabbè. No, te l'ho detto mille volte. E mi sono dimenticato. Io sono, ripeti... Una docente abilitata all'insegnamento nei licei. Ma sempre a scuola stai, docente abilitata? Ci sono le scuole elementari, le scuole medie, le scuole superiori, basta maestre, non te lo devi mai dimenticare. Tu ormai sei alle superiori, io sono alle superiori. Noi siamo superiori. Appunto. Mai, non lo vuoi sapere che ho scritto? Me l'hai detto. E che scrivevo? Solo che a Natale andiamo ad Acciaroli. Mi era sembrata un'ottima sintesi. Allora non lo vuoi sapere che ho scritto? Che hai scritto? E dove? Nel compito in classe. E quale? Descrivi la tua famiglia. Ah, quello. Perché ti interessa? Ma veramente lo vuoi sapere che ho scritto? Oscar, dimmi. Amore. Tesoro mio bello. Mi hai chiesto se volevo sapere quello che avevi scritto nel compito. Sì. Mi sembrava che me l'avessi già detto, che avessimo già esaurito l'argomento. Dato che mi sono sbagliata, per favore dimmelo, ci tengo, che hai scritto. Non mi ricordo. Non fare il cretino, l'hai scritto stamattina. Stamattina, avanti, sì. Adesso basta, Oscar, su. Te l'ho detto. Cose così. Bravo. Normali. Epigrammatico. Di papà. Ah. E che hai scritto? Di papà. Che mi ha chiamato Oscar, che gli piaceva il cinema. Non è morto. E meno male. Non sei orfano. Meno male. Hai usato l'imperfetto, Oscar. Hai detto gli piaceva il cinema. Non è morto. Perché magari adesso il cinema non gli piace più. Gli piace un'altra cosa. Magari adesso gli piacciono le macchine. Gli piacciono le corse delle macchine. Come li ha chiamati i gemelli? Non mi ricordo. Te lo ricordi? Non mi ricordo. È come se te lo ricordi. In un esubero creativo li ha chiamati Davide e Donatello. Perché gli piace il cinema, tutto il cinema gli piace. Gli piacciono le attrici, le sarte, le parrucchiere, le truccatrici. Soprattutto le truccatrici gli piacciono quelle, papà, perché certo ci fai i figli con le truccatrici. No, no. Ma se ci fossero le macchiniste, gli piacerebbero le macchiniste, le direttrici della fotografia, Terra, le operatrici. Squadra B, segnale di pericolo. Gli piacciono in maniera allarme, particolare. Non so, perché ci avranno qualcosa che io... L'Oscar è importante, no? Molto importante, molto. Il più importante di tutti. Si vede che non gli è bastato. Io però gliel'ho detto, ma ho detto, ma Iori, ma che fai, ma che tieni il gemello? No, uno, e due. E che ti ha risposto? Ha detto, appena ricarico il telefonino te lo spiego. Certo. Veramente, ma dici che mi chiama sì o no? Quando ha detto questa cosa, quando è stato che lui ha detto questo fatto? Mi pare che da poco avevo fatto le tonsille, sì, da poco avevo fatto le tonsille, un anno e 9 mesi fa. Era lunedì mattina, ti ricordi? Io sono entrato in sala operatoria alle 8:45, fuori pioveva, e tu tenevi quel cappotto verde a quadroni senza il bottone al centro, sì. E non ti preoccupare, vedrai che appena papà ricarica il telefonino ti chiama sicuramente. Mi chiama sicuramente allora. Quando è che hai fatto le tonsille tu? Un anno e 9 mesi fa. Che giorno è? Lunedì mattina. Che ora? 8:45. E dove l'hai fatto? Al policlinico. Erano le 8:45 quando sono entrato in sala operatoria. Sì, fuori pioveva e tu tenevi quel cappotto verde a quadroni senza il bottone al centro. E tu ti ricordi tutto così? Però poi l'abbiamo trovato il bottone. L'ho trovato io. Mi sono messo a scavare e l'ho trovato. Stavo tu sotto sei un divano. Genio, amore mio, veramente. Quello basterebbe un poco di sostegno, ma ce l'hanno pure tolto. Che ci tolgono? Niente, amore, niente. Vedrai che appena papà ricarica il telefonino, ti richiama subito. Richiama, allora richiama. Oscar è importante. Il più importante di tutti. Papà ti richiama. Papà, papà. Ma tu gli vuoi proprio male? A chi gli voglio male? A chi? A chi? A papà. Quante volte me l'hai fatta questa domanda? No, io male. Non lo so se gli voglio male. È molto impegnativo malissimo. Odiare il tuo nemico. Se persisti, alla fine rischi di assomigliarmi. Mai che mi dici sì è così. Oppure no, non è così. Come tutte e mamma, quelle normali. Che come sono e mamma quelle normali? Che quando un figlio... Dimmi. Se mi fai ti parlare. Ascolto, dimmi, che quando dimmi. Un figlio gli fa una domanda. Che fanno? Rispondo. Ah, e sanno sempre la risposta. E certo, che ci vuole? Certo, uno può dire sì oppure certo, no. Si vede che sono più bravi di me allora. Sì. Ce ne sono molte di queste mamme, sì. Sai quante ce ne stanno? Ah, è pieno. Te ne trovo quante ne vuoi? Perché non vai a giocare a pallone. Vai a giocare. Ti sei offesa? Vai a giocare a pallone. Ti do fastidio? Vai a giocare. Sudo, lo sai che sudo. E fa niente, vuol dire che poi ti asciughi. E poi mi viene la tosse. E pazienza. E che muoio morto pure a me. Gioca! C'è un Game Boy in offerta da Supertoy. Game Boy da Supertoy. Game Boy! Senti. Andiamo da Supertoy, me lo compro e sto quieto. Non mi presto. Andiamo da Supertoy, me lo compro e sto quieto. Gatti e tu lo sai. E allora io che faccio? E che ci siamo venuti a fare al parco? Che ne so io. Tutti i ragazzi quelli normali, tutti i figli quelli normali vogliono venire al parco. Ma quando mai? Tutti. Sei stata tu. A fare che? Che sei voluta venire qua e detto usciamo che dentro casa c'è sta troppa puzza di bruciato. Puzza di bruciato. Bruciato! Bruciato. Salsa rossa. Ma che fai, ma? Chiagna? No. Eia, che mi sto comportando male? No, te sei portate le gocce? E a che stai pensando, ma? Che ci mangiamo stasera? Pasta in bianco. Pure ieri ci siamo mangiati pasta in bianco. Sì. Ma stasera ci facciamo le farfalle, va bene? Pure ieri ci siamo fatti le farfalle. No, mezze maniche rigate. Sicuro? Certo. E allora stasera ci facciamo le farfalle. E sai che facciamo, ma per farlo venire più buono? Sai che facciamo? Ci mettiamo dentro la ricotta. Ci mettiamo dentro quella mezza ricotta che ho lasciato io, sì, ma? No, la ricotta no. No, no, perché è finita, ma? Te la sei mangiata tu? No, è finita e non te la sei mangiata tu. Ma mamma, non è che quando noi usciamo il pomeriggio c'è qualcuno, ma c'è qualcuno che viene a casa nostra che si ruba la ricotta? E chi? E che ne so? E chi? E con la ricotta è la più buona, c'è qualcuno, ma... E chi? Va a giocare, va, non ci pensare a ricotta. Ogni tanto con questo fatto che devo andare a giocare, a che gioco? A pallone. No, non ce l'ho il pallone. Guarda, ce l'hanno quei ragazzini là, vedi, va a giocare con loro, vai. Quei ragazzini là sono piccini, te ne hanno 7 anni, io sono grosso, ma come te lo devo dire? Sono grosso, sono grosso, sono grosso, sono grosso, sono grosso, sono grosso. Tutti quanti silenzio! Finito. Mo? Silenzio! Non posso stare a casa mia, non posso parlare, non posso giocare. Chi te l'ha detto che non puoi giocare? Se gioco sudo, mi ammalo, mi viene la tosse, tu devi rimanere a casa perché mi devi accudire. Non puoi andare più a scuola, le suore si arrabbiano, ti licenziano e noi finiamo sotto i ponti. Domani finisce la scuola, non cercare scuse, ti puoi ammalare quando vuoi tu. C'è un gambo in offerta da Supertoy, se me lo compri non ti do più fastidio. Tu non mi dai fastidio, tu mi sfinisci. Se me lo compri non ti sfinisco più. Ah, ma mi sono fatta male qua vicino, una spina. Una spina. Mamma. Se no c'è Ciu, che vende quello suo. C'è Ciu. Ciu, il cinese nuovo. Non si chiamava Tai. Tai ha detto che con Ciu nel banco non ci sta perché è chiatto e i gatti gli fanno schifo, pure se è cinese. Ha detto deve fa l'inserimento. Sì. Ciu deve fa l'inserimento, sta al secondigliano di casa. Ha detto la Enza che deve fa l'inserimento nel banco con me. Eh certo, a chi gli doveva capitare l'inserimento col cinese? Usciamo col cinese. Ma c'ha 3 Game Boy, ma giù. E non si vergogna? Gliel'ho detto pure io, ho detto ma non ti vergogni, mamma, sono fatta male e brucia. Soffia. Ho detto ma non ti vergogni. E lui mi ha detto, mi sa che c'hai ragione, no, ti faccio fare un affare, quello vecchio te lo vendo a te, fammi un'offerta. Invece certo. Sai che faccio, ma mi faccio invitare a casa sua e me lo prendo. Ti vuoi impossessare di qualcosa che non è tuo? O me lo compri tu o mi prendo quello di giù. Ho un figlio ladro. Mi faccio invitare a casa sua e quando lui va in bagno a fare la pipì, mi metto in tuo zaino e ci faccio fare l'inserimento. Io un figlio ladro non lo faccio neanche entrare in casa, è chiaro? Ma quello nemmeno se ne accorge. Resti a dormire fuori allo zerbino, fuori! Ma io mica sono fesso come fuori. Te. Io mica sono fesso come te che me ne faccio accorgere. Tu non sei capace nemmeno di rubare un salame, proprio. Quelli del supermercato non hanno avuto il coraggio di chiamare la polizia, le guardie, perché ci stavo io, le ho sentiti. Hanno detto, non ne chiamiamo le guardie, perché c'è sto guaglione che ci fa pena. Che stai dicendo? Quando ti sei appoggiato alle casse, la busta di plastica che tenevi in tasca si è rotta e dalle tue tasche è uscito un verme di ricotta che mi sembrava pus. Ti stai inventando? Che schifo, ma che schifo. Sei pazzo. E il salame che tenevi nell'altra tasca. A un certo punto non te ne sei accorta, è uscito fuori l'etichetta con lo spago e si leggeva la scritta salame. Salame, ma tutti l'hanno letto, tutti quanti, salame. Se ne è accorta? Stai tranquillo, non ci sente nessuno. Se ne è accorta? La commessa? Nessuno fa la spesa a maggio col cappotto, ma nessuno. È la prima volta, non... Che cosa dice la Costituzione? Vergogna. Che cosa dice la Costituzione? Vergogna. Enza dice sempre, che l'abbiamo fatta fare la Costituzione se poi ognuno fa come gli pare? Bastano i comandamenti. I comandamenti? Che cosa dicono i comandamenti? Che peccato. Che cosa dicono i comandamenti? Che peccato. Peccato, sì, peccato. E poi va bene nelle tue tasche, va bene. Ma perché nel mio zaino? Nel tuo zaino. Ma che stai dicendo? Ma sei impazzito? Non l'avrei mai fatto. Ma non potrei mai. E la crema da notte? Mai, ma quando mai? Te l'hai scordata? Ma quale crema? Quella nel vasetto blu. Blu? La crema, blu. Era in offerta. Offerta. Io formaggio e maionese? In offerta. Mamma, quando una cosa è in offerta vuol dire che te la offrono? Ah sì, Tu mi stai dicendo che se una cosa è un'offerta la posso prendere senza pagare? No, tu no. Ah, io no. Del tuo zaino non deve mai finire niente, mai, ricordatelo mai. Perché a te sì, a me no? Perché io sono cliente, perché a me mi fanno credito. Io prendo le cose e loro mi fanno le offerte. Ho capito. Solo ho capito. Tu prendi in prestito, loro ti fanno le offerte senza pagare. Non è come pensi tu. Se uno ruba va in prigione. Oscar, per piacere. Se va in prigione io resto solo. Oscar, nemmeno la nonna poi mi resta. Perché Oscar, la nonna appena viene a sapere che ti hanno messo in prigione, le viene un infarto e muore. E io sono costretto ad andare Oscar, a vivere con papà, piacere, la truccatrice e coi gemelli. Va bene, finito, e siccome non c'è basta, posto per me, papà, perché non c'è posto per me, mi mettono a dormire in cantina, che fa freddo, è umido, ci sono i topi, mi ammalo dopo pochissimo e muoio. Se muori tu, muoio pure io. E allora non ti far capitare più niente in tasca. Oscar, guardami. No. Guardami, no, ti prego. Non mi piacciono le scene, guardami, esagerate. Sei brutta. Io sono una persona onesta. Vai a spiegare alle guardie che ti arrestano con la ricotta in tasca. Tutto il resto io l'ho pagato. L'hai pagato? E che hai fatto? Prendi il 4 e pago 1. No, mi dispiace. Queste cose le so, non mi puoi prendere in giro come vuoi tu. Va bene, allora vuol dire che la prossima volta pago pure quello che ho preso. E come fai? E come faccio? Lo dico alla commessa. Che dici? E le dico, signorina, mi scusi, la volta scorsa quando sono venuta mi è caduta una ricotta nella tasca del cappotto. E io formaggio, la maionese, la crema, il deodorante, il salame. Ma tu a che parte stai? Se basta a me! Dalla parte della Costituzione. Senti, Costituzione, vai a giocare con quei ragazzini là, quelli sono grossi. Sono grossi, vai, ma guarda, sono grossi vai. E malattere. Ma come te lo devo far capire che non ci voglio giocare a pallone? Alla tua età quelli normali giocano. Sì, quelli normali, sono normale io. Tu sei normale? No, non sei normale. Io ho un disturbo gravissimo. No, tu sei un disturbo gravissimo. Sono un disturbo? Allora tolgo il disturbo. Dove vai? Me ne vado. Dove vai? Torna qua. Me ne vado, lasciami stare. Non dire fesserie. Me ne voglio andare. Tu fai quello che dico io, no bambino, l'altalena è occupata. Torna subito qua. Avanti. Sono un disturbo. Ammazzami allora. Che tanto che non lo so che le madri quelle nervose come te quando si stancano li ammazzano ai figli come me. L'ho sentito in televisione. Ma io mo sai che faccio? Mi compro una bella pistola e me la metto sotto la cucina. E voglio vedere come fai. Ma voglio proprio vedere come fai. Voglio vedere. Meno male che non ti piacevano le scene esagerate. Tu mi dici le cose brutte. Anche tu. Io ti dico le cose come stanno. Tu mi dici le cose brutte. Anche tu. Io ti dico le cose come stanno. Brutte. Mosca vigliacca. Qualcosa? Hai ragione tu, io sono proprio un disturbo. Io sono proprio nervosa, hai ragione tu. Sono nervoso, non ci posso fare niente. Vabbè. Quando mi prende un guai. Te le sei portate le gocce? Perché? Finite. Ma non te le passa la muta? La mutua? Quella. No, prima te le passava però. Se sei pericolosa te le passa, a me non me le passa più. E hai ragione, non te le può passare. Tu non sei pericolosa, tu sei buona. Nemmeno a me lo può passare, pure io sono buono. Mi mandi un bacio, facciamo pace. È arrivato. Che cosa leggi di bello? Leon. Non muovere, mi fai girare la testa. Leon Battista Alberti. Leon Battista Alberti. È famoso, ma. È il marito di quello che sta in televisione. A quanto? Chi? A quanto lo vende? Ciù. Chiedigli a quanto. Ha detto, il prezzo tuo è il prezzo mio, fammi un'offerta. Ma che vuol dire il prezzo tuo e il prezzo mio? Non ti devi fidare, no. È lui che deve fare l'offerta. Poi noi gli diamo la metà, così si fanno gli affari. Se lo sai come si fanno gli affari, perché non li fai pure tu? Io non ho detto che mi piace fare gli affari. Uno mica può fare sempre quello che gli piace. Però volendoli saprei fare pure io. Prima il dovere e poi il piacere. Io il mio dovere l'ho sempre fatto. Nonna ti doveva prendere ammazzate, che volevi studiare la storia dell'arte. Barda a fare gli affari, barda a fare i soldi, che poi i quadri e le statue, nemmeno devi fare la fila per andarle a vedere ai musei. Certo. Decat. E te li metti a casa. E quando si sono fatti vecchi e non ti piacciono più, le butti e ti catti nuovo. Ti catti nuovo. I genitori devono dare i consigli giusti ai figli. E quando i figli non vogliono stare a sentire, allora mazzate. Capito? Mazzate. Allora, se un giorno tu volessi metterti a studiare la storia dell'arte, che devo fare? Ti devo prendere ammazzato. Io? La storia dell'arte? Non la voglio studiare. Io voglio fare gli affari, come Chu. Sì, ma tra un affare e l'altro, con Chu. Magari ti piace, potrebbe piacere la storia dell'arte. Speriamo che non mi capita mai questo guaio. Speriamo. Speriamo. E stammo punti a capo. Allora, di a Chu di farti un prezzo. Ma però, senza denari non si cantano messe, ci vuole il contante. Bravo, lo sai, chi te l'ha detto? La professoressa Enzo. Ce l'abbiamo noi, il contante. Tra 15 giorni se mi danno gli arretrati. Tra 15 giorni è sfumato l'affare. Pazienza, vuol dire che ne faremo a meno. Ma allora mi prendo quello di Chu. Ancora? Se lo fai tu, lo posso fare pure io. Io ho preso solo cose di estrema necessità. La crema da notte. La crema da notte. Ho la pelle secca. Senti come secca. È un deserto. Quella crema non vale niente. E che te la sei presa a fare? No, non ti potevi prendere quello che ti toglie il deserto? E quella non era in offerta. Rubare per rubare. Tanto valeva quella che ti prendevi, quella che costa di più. Non era mai successo, giuro. Non fa niente, dai. Alessa Murimmo, io ho pensato che rubare una cosa che era in offerta era un peccato che non era tanto peccato. Ma perché? Ma perché a te non ti pagano mai? Mai! E alla professoressa Enza invece tutti i mesi, tutti i mesi! Certo, la professoressa Enza. Descrivi la tua famiglia, la costituzione. Andiamo a Pompei. Paghiamo il biglietto. Che ne sa lei? Come se non lo sapessi che cosa fa il marito. Che fa il marito? Fa il notaio. Fa. Notaio, è una e cosa lei brutta. Lei insegna in una scuola statale, ecco che cosa fa. E d'estate se ne va in vacanza a Ischia, capito? A Ischia! Mamma mia, ma... È colpa mia se sto alla parificata. E che differenza mia. Fa? Che è privata! Che è privata. Ma tu non sei una maestra qualunque, ma... No, ripeti, tu sei una docente abilitata per l'insegnamento nei licei. Tra 15 giorni mi danno lo stipendio con tutti gli arretrati. Come te l'hanno dato 15 giorni fa? 15 giorni mi danno lo stipendio con tutti gli arretrati ad essere così. Paghiamo le bollette, paghiamo il condominio, paghiamo l'affitto e ci curiamo i denti. Quante care hai tu? Mi sembra due. Due, pure io due. E qual è quella che ti fa male di più? Questa mi sembra. Allora, noi facciamo così, che ci curiamo una carie per ciascuno, quella che ci fa male di più. Per il resto Dio ci pensa, cominci tu. No, prego, prima le signore. Io metto paura. Vabbè. Ma che scherzi, i denti. Va bene. Ma però mi devi promettere una cosa, me lo devi promettere, che appena arrivano i soldi li portiamo in banca, va bene? E no come l'altra volta che quando sono arrivati per nasconderli hai tagliato lo spilatino, ci hai tolto la mollica, hai messo i soldi dentro, hai chiuso lo spilatino, poi la sera sei tornata, ti sei scordato e hai tagliato lo spilatino. Allora non mi prendevo ancora le gocce. E ci siamo dovuti mettere ad attaccare con lo scotch tutti i soldi, tutti quanti, però nessuno se li voleva prendere perché diceva, signore, sono falsi questi qua. Ora non mi scordo niente più. E allora li portiamo in banca, mi piace la banca. Ti piace, te la guardi da fuori, non li portiamo. In banca. Li vuoi mettere un'altra volta nello sfilatino? Non li voglio mettere nello sfilatino, ma non li possiamo mettere in banca, vabbè? Perché? Ho chiuso il conto. Hai chiuso il conto? Come hai fatto? Ha litigato? Come si chiude il segno conto? Meno. Non come c'era mai il segno più, volevo il segno più. Arrivava l'estratto conto, segno più, no, segno meno. Andavi in banca, portavi 500 euro, segno più, no, segno meno. La notte mi sognavo, segno più, andavo in banca, no, segno meno. E mi sono liberata. Siamo poveri. Poveri. La siamo è una poveri. Domanda? No, sono sicuro. Non ti permettere proprio, non ti permettere neanche di nominarla questa parola, va bene? Noi non siamo poveri, hai capito? I poveri dormono sotto i ponti. Quelli sono i disgraziati. Ci stanno i poveri e poi ci stanno i disgraziati. Ah, ecco, ma noi facciamo in tempo a diventare disgraziati pure noi. Ho detto basta, Oscar, non voglio sentire nominare questa parola. Noi non siamo poveri. I poveri non hanno un lavoro. E se uno lavora e non lo pagano? I poveri non hanno una casa. Non l'hai detto tu che se non paghiamo l'affitto ci cacciano? Certo, mica possiamo fare come ci pare. E perché loro ti possono pagare quanto ci pare a loro allora? Perché è un brutto periodo. Un brutto periodo? A me mi sembra che da quando sono nato... Ma l'aereo, guarda, porta fortuna, guarda. A me mi sembra che da quando sono nato è un brutto periodo, sì. E questo è un periodo un po' più brutto degli altri. Allora dobbiamo protestare, ma no, poveri, no, poveri, no, poveri. Vai, vai con i cartelli, vai a protestare, sì, quanto sei bellino. Che protesti, ma che protesti. Mi gira la testa, ma protesti. No, non si può protestare. Non si può protestare. Perché? Se protesto mi cacciano. E tu vai a lavorare da un'altra parte. Oscar. Dimmi. Oramai di Leon Battista Alberti, non ne importa più niente a nessuno. È un artista, ma... Un grande artista. Allora mi devi promettere una cosa, ma... Però non come prima, devi dire prometto. Prometto. Ci prometto. Dico prometto. Prometto. Se voglio fare l'artista, battamo, ma... Ma ammazzate proprio, capito? Io vengo da te, ma voglio fare l'artista. Che vuoi fare tu, l'artista? Ammazzate. Che vuoi fare tu, l'artista? Ammazzate. Mazzate proprio con la palla. Mazzate, dite dunghe mazzate. Quanto manca a Natale? Ma? Quanto manca a Natale? 6 mesi. Tutto questo tempo? Eh sì. Ma proprio, proprio. Che mangiate che ci facciamo a Natale dalla nonna, ma? Che mangiate? Sai che faccio mo? Sai che faccio? Fai? Mo la chiamo la nonna. Beh. E glielo domando. Che ci cucini a Natale, nonno? Che la testa aspettando? mamma mia. Chissà com'è che io prima i cicci maritati non li volevo proprio. Niente, ti piacevano solo a te. Mo se la nonna non ci fa i cicci maritati per Natale, non mi sembra Natale. Madonna, vado pazza per i cicci maritati. Sono buoni proprio. Mamma mia. Lo sai che me li sono sognati? I cicci maritati. Un piatto di cicci maritati, eppure un piatto di fusilli al ragù. Ragù. Io mi sono sognato un piatto di manfredi con la ricotta. Ma quelli non sono cilentani. Ma io me li sono sognati, mica me li sono mangiati. Fusilli al ragù, come li fa la nonna, con la pasta fatta in casa. E con la carne che cuoce a fuoco lento, che diventa sempre a fiamma bassa. 6-7 ore, scura. Nera diventa. Scura, fa paura. Tu alzi il covecchio, la guardi, è nera, fa paura. Scura, come cucina la nonna, di ma? 3 piatti me ne sono mangiati a Natale di fusilli con ragù. E io due volte il pesce con le patate. Io non lo volevo il pesce con le patate perché mi mettevo paura delle spine con il pesce. Allora tu hai detto, dammela a me che ti tolgo le spine. No, mi metto paura, tu l'hai tolto, l'hai pulito. Hai detto assaggio. No. Ho assaggiato, erano buonissimi veramente. Sono più buoni i cicci maritati, però pure il pesce con le patate è buonissimo. Eh sì. Ma? Sai che facciamo domani appena finisce la scuola? Che facciamo? Ce ne andiamo dalla nonna. Scappiamo proprio dalla nonna, corriamo dalla nonna. No? Non si può. Ma che schifo, ma perché ogni anno sembra la stessa storia, sempre la stessa storia, ma perché io e te dalla nonna dobbiamo andare soltanto a Natale quando fa un freddo cane e due bagni a mare invece, mai io e te, mai due bagni a mare, ma perché, ma che gli abbiamo fatti e te alla nonna e che fastidio le diamo io e te in una camera da letto? Devi stare quieto, che hai bambino, vuoi giocare pure tu, no bambino, questa altalena dalle 2 alle 5 tutti i giorni è occupata, convinciti, vai da mamma, vai, ma fai scendere? Allora... La nonna tutti gli anni, da giugno a settembre, affitta la casa a un farmacista di Acciaroli, di Salerno. E lei dove va? A Itri. E dove? Nel camper della sorda. La madre di Pino? La dirimpettaia di nonna. Quella che urla sempre? La nonna va a fare la guardia ai figli della sorda. La guardia? Quando la sorda va in discoteca col marito. Che ci va a fare la sorda in discoteca? La sorda non è sorda, la chiamano sorda perché urla sempre, non ti sopporta proprio. Nemmeno morto ci andrei in camper con la sorda, ma nemmeno in discoteca. Sì, quelli stanno aspettando a te, sono in 6 in un camper, ci sta posto nemmeno per loro, ci sta posto per te. Ma almeno la nonna ci guadagna dall'affitto. Certo. E con i soldi dell'affitto che ci fanno, non ce li può dare a noi? Secondo te, a macchinette per niente per te come l'hanno bavata? Tengo l'affitto della nonna in bocca. Non li potevamo lasciare storti. Certo, che lì già è bello 4. Eh? Niente, no. Oscar, ce ne stavamo ad Acciaroli. Vabbè, Oscar, a mangiare i cicci Oscar, maritati. Basta adesso, non ti lamentare, che se non ci fosse la nonna. Se non ci fosse la nonna, non eravamo poveri, eravamo disgraziati. Disgraziati. Allora siamo poveri. Sì, siamo poveri, ma non siamo disgraziati. I disgraziati non ce li hanno le nonne. Non ce li hanno le nonne. No. Ma sai che faccio tutte le sere prima di andare a letto quando mi metto la macchinetta? Mando un pensiero alla nonna. Bravo, bravo. Vedi che la riconoscenza è una moneta fuori corso. Mi piace la riconoscenza, fuori corso, mi piace, sì. Ma è quest'anno con i soldi dell'affitto di Acciaroli che ci dobbiamo fare? La caldaia nuova. Perché la vecchia che c'ha? È morta. E che c'era in porta? Pure se era morì. Fa un caldo che si schiatta. Sì, ti voglio vedere fra 4 mesi senza acqua calda e senza riscaldamento. Ma io proprio dico, con tutti i soldi che ci diamo al padrone di casa, almeno una caldaia nuova, una. E se si inventa una figlia che si sposa? Ma chi se la sposa? Che quella è bruttissima. 4-3-4-8, che dove andiamo noi? Dove la troviamo? Un'altra proprio. Casa con camera, camera da letto, la vuoi finire con questi piedi? Sto facendo le misurazioni. È un'ora che ti stai toccando i piedi. Sto facendo le misurazioni, ma mi sa che c'è qualcosa che non va. Mi sa. Due mesi fa, ma il dito grosso della mano era lungo come il dito grosso del piede, uguali. E adesso, guarda. Adesso? Anche, guarda. Certo, Oscar, è per forza, è normale. Allora è cresciuta anche la mano. Certo, amore, cresce la mano, cresce il piede, tutto cresce, anche il cervello, piano piano, speriamo. Infatti, io dicevo, com'è che ci struscio sulle punte? Sono nuove. Ci struscio sulle punte. E certo, se non ti tagli le unghie, che te le devo tagliare io, che sei un ciuccione, tieni quasi 20 anni. Me le sono tagliate ieri sera le unghie. Se tagliavo un altro poco, mi staccavo un pezzo di dito e ci struscio sulle punte. No. Ci struscio. No. Ci struscio. Oh Gesù. Ci struscio. Ti sono cresciuti i piedi. Non l'ho fatto apposta. Dobbiamo ricomprare le scarpe. Mi sa di sì. Un mese fa te le ho comprate. Le compriamo sulla bancarella. Due paia ci fanno lo sconto. Due paia. Pure quelle da ginnastica. Pure quelle da ginnastica. Se no come faccio ginnastica? Le disgrazie viaggiano in comitiva. È un incubo. No, è un pensiero cinese, lo dice Giù. Ma le avevamo, ci avevamo messo la soletta dentro, l'avevamo presa in crescita, 2 numeri sopra, non uno, 2! Me le hanno rubate quando sono andato nello spogliatoio dopo la ginnastica rubate, ad asciugarmi il sudore. Rubate? Uno più grosso di me, con i peli dentro al naso. Io dopo la ginnastica sudo, puzzano, lo sai, e me le tolgo, mi metto quelle altre e le lascio asciugare all'aria aperta. Me l'hai detto tu, quelle da ginnastica usale solo per fare ginnastica, così si consumano di meno. Se le proprio infilate, ma non le ha nemmeno messe nello zaino, se le proprio infilate e le faceva vedere a tutti quanti. Allora io ho detto, guarda che quelle sono le mie scarpe, che numero c'hai tu? 40, vedi che ti sbagli, qua sotto sta scritto 42, mamma me l'ha preso in crescita, ci ha messo la soletta, non uno, 2 numeri sopra, non uno, 2 numeri sopra, ma mi hanno pigliato per culo tutto quanto, ma proprio. Voglio i giornali. Ma le compriamo sulla bancarella dal marocchino, 2 paia le paghi come mezzo nel negozio. Ci abbiamo già provato a comprarle dal marocchino, ti puzzano i piedi, peggio che non si può entrare in casa appena te le levi. No, voglio i giornali, io faccio una denuncia. A me la puzza che fanno le mie scarpe mi piacciono. Certo. Se poi dà fastidio a quel signore che dorme nel tuo letto, a quel signore è un'altra cosa. Oh Gesù. A quel signore. Oh Gesù. Quale signore? Perché quando ce ne stanno? Quel signore quale? Quello che sta dormendo mommo nel tuo letto. Ah, quello. Oh Gesù. Mi fare l'imitazione di quando sono nervosa, finisce che ti prendo a schiaffi. Chi è quel signore che sta dormendo mommo nel tuo letto? Perché non vai a giocare? Rispondere con una domanda ad un'altra domanda è segno di uno che non sta apposta con la coscienza. Ma quando mamma, chi te l'ha detto sta festa lì? Tu. Ho detto così? Sì. Rifammi la domanda. Quello che sta dormendo mommo nel tuo letto? Sul divano. Essendo che è un divano letto. Sì, ma quando è chiuso è un divano e lui non ha il permesso di aprirlo. Quello che sta dormendo sul divano. Fa il guardiano notturno. E che ci fa a casa nostra? Come l'hai scoperto? Me l'ha detto Ida, che va a buttare la spazzatura nei cassonetti che stanno di fronte alle nostre finestre. Ha detto che ogni volta che andava vedeva uno che si alzava e che chiudeva le finestre. Un pomeriggio non le ha chiuse e ha visto uno che si stendeva sul divano. Quel signore. Ti posso dire che cosa penso di Ida? No, chi è? Te l'ho detto. Che ci fa a casa nostra? Sta a casa nostra. Perché? Ci dà 150 euro al mese. E tu per 150 euro che gli fai? Detto, che gli fai? Non ti che permettere. Gli fai? A te te li dà. Io non ci guadagno niente. Mi dà 150 euro al mese. Perché? Per dormire 3 ore il pomeriggio. Ma non se ne può stare a casa sua, no? No. Ma chi è? Chi è? Oh Gesù. La notte lavora al museo di Capodimonte come guardiano notturno. La mattina presto lavora al molo Beverello. A ora di pranzo va a mangiare da sua madre, si abboffa di parmigiana, di melanzane, pasto unico. Il pomeriggio viene a dormire 3 ore da noi. È separato. Separato clandestino non lo sa nessuno, neanche sua madre si vergogna. Ha 3 figli. La moglie l'ha cacciato di casa perché giocava ai cavalli e perdeva sempre. Lui dice che se la moglie l'avesse cacciato perché giocava avrebbe pure capito. Ma lui dice che la moglie non l'ha cacciato perché giocava, ma perché perdeva. Allora, dopo che ha dormito a casa nostra, va un'altra volta a giocare ai cavalli e è convinto che prima o poi vince. Così, torna a casa della moglie con un mazzo di banconote. Così, la moglie gli butta le braccia al collo e vissero tutti felici e contenti. Loro. Ricordati, diffida sempre delle storie che finiscono bene. E io per un disgraziato così che mi ruba pure la ricotta mi devo preoccupare se le mie scarpe puzzano? No, non è per lui, è per me e per te. No. Casa nostra non deve puzzare, ricordatelo mai. No. Noi non ci dobbiamo mai livellare in basso, ma mai. Sono contento. E tu devi avere un paio di scarpe almeno decenti. Sono proprio contento, ma che non ti sei fidanzato con quello là. Ma per carità, ma non ci penso nemmeno. Meno male. Se permetti io, con un guardiano notturno non mi ci fidanzo, ma nemmeno si so già una disgraziata. Ma mi piace, ma mi piace. Disgraziata, ma mi piace, sì. Tu non vuoi che mi fidanzi, è vero? Dipende. Dipende? Da che dipende? Da che punto guardi il mondo, tutto dipende. E allora tu come lo vuoi il fidanzato di mamma? Uno come il padre di Giù, ecco, che c'ha 3 case, 3 macchine e 3 televisori. Che ci fa il padre di Giù, sto pare con 3 di tutto? Se ce l'ha qualcosa ci fa. Amore mio. Non si vive 3 volte. Però finché vive, ma lui si diverte, ma sicuro perché? Proprio. Ma perché? Ma in fondo a noi che cosa ci manca? Non ci manca niente. Se lo dici perché mi vuoi consolare, lascia stare. No, non lo dico per consolare te. Mi voglio convincere io. E a te come ti piacerebbe il fidanzato? Che non fa l'attore disoccupato. Come papà? Che non fuma, che non beve. Che non gli piacciono le truccatrici. Come papà. Che non gli piacciono le scommesse. Come il guardiano notturno, alto o basso. Che ha uno stipendio, tutti i mesi di laureata in casa Bastoni. Bruno Biondo. Che ci porta il sabato a mangiare la pizza. Che... Pure a me la pizza. Certo che ti lascio a casa. Tu non puoi restare a casa da sola. Certo che vieni pure tu. Certo. Mi prendi la polacca. Ma che polacca, che esagerazione. No. Tu vieni a mangiare la pizza con noi, non si discute. Che ci porta a mangiare anche il gelato e che ci porta al cinema. A vedere Transformers. E poi non ci porta tutti. Sabato facciamo un sabato sì e un sabato no. Va bene. Mi piace questo fidanzato, ma lo prendiamo. Ma deve dormire per forza a casa nostra. Ah, se paga l'affitto, le bollette e fai lavoretti a casa, se no se ne stesse pure a casa sua, che io e te già in 35 metri quadrati ci alitiamo addosso. Come il bue e l'asinello. È un Cristo qualunque, non ce lo vogliamo. Solo si fa il miracolo. A me e a te, se ci danno lo stipendio, se ci paga il guardiano notturno, se la nonna ci dà i soldi dell'affitto, e Gesù ci mette una mano sulla testa, a me e a te non ci manca niente. Tutte e due a me e a te. No, Gesù, le mani sulla testa ce le deve mettere tutte e due. Tutte e due. Dici. È meglio. Tutte e due. È meglio. È la prima cosa che deve fare questo fidanzato, ma deve aggiustare il rubinetto nella cucina. Quella goccia mi sta facendo uscire pazzo. Fa fastidio proprio. Fa fastidio. E deve avere una macchina. Piccola però. Normale. Facciamo né troppo grande né troppo piccola. Perché ma se poi è troppo piccola come ci mettiamo dentro le buste della spesa? Certo, noi dobbiamo andare a fare la spesa. La spesa? Facciamo la spesa. La spesa, ma? Compriamo il prosciutto. 2 etti di crudo e 1 di cotto senza conservanti. Budini al cioccolato. Pistacchi e pinoli. Mozzarella di burro. Quella per forza. Che pomarolelle, che ci facciamo la pizza con le acciughe sopra. E per primo i manfredi con la ricotta. Va bene. Ma oggi non dovevamo andare a mangiare fuori? È vero, oggi è sabato, pizza, cinema e gelato. Domani è domenica, a Rosso è partita del Napoli. Col purè. Mi piace questo fidanzato, ma mi piace. Cacciamo il guardiano notturno, ma non ci serve più. Vabbè, ce lo teniamo fino a che non ci danno gli arretrati. Poi quando mi hanno dato gli arretrati lo cacciamo. Va bene. Alla fine mi hanno scoperto che non siamo usciti per la puzza. Io sono detective, sono troppo detective. Vabbè, la puzza c'era. C'era anche la puzza. Ieri hai trovato la scusa che avevi lavato i pavimenti e si dovevano asciugare per 3 ore. 3 ore, ma... Vabbè, e se te lo dicevo? Perché non me l'hai detto prima? E che cosa cambiava? Perché non ci facevo una brutta figura con Ida. O ti dico che cosa penso di Ida? No. No, mo te lo dico. No, ti livelli in basso. Hai ragione. Non ci dobbiamo mai livellare in basso. Te lo dico io perché non volevi dirmelo. Perché ti vergognavi di dirmi che i soldi non ci bastano. Non ci bastano. Ma adesso che lo so che i soldi non ci bastano e che il guardiano notturno sta a casa nostra soltanto per soldi, possiamo rimanere in camera mia zitti zitti per 3 ore. Sì. E che facciamo zitti zitti per 3 ore? Dormiamo. Dormiamo. E se dormiamo il pomeriggio, la notte, che facciamo? I guardiani notturni pure noi. Non li vogliono una mamma col figlio a fare i guardiani notturni. Non li vogliono, però allora ci conviene. Ci pagano come uno, però abbiamo 2 bocche e 4 occhi. Avvistiamo per primi i ladri e ci mettiamo a luccare. Mario, ti ho visto, non te ne puoi scappare più con la roba, ti ho visto, lasciala la roba. Mario, lasciala la roba, ti ho detto. Ma dammi una mano pure tu, li facciamo scappare. Mario, lasciala, ma urla pure tu così li facciamo scappare. Mario, lasciala la roba, non te ne puoi. Ma allucca pure tu, allucca. Mario! Ma così non se ne scapperà mai. Allucca più forte, ma più forte. Mario! Mario! Bravo! Guarda come scappa, ma guarda come scappa. Penseranno che siamo pazzi. Falli pensare quelli che vogliono. Intanto noi abbiamo messo in fuga i ladri. E sicuramente adesso ci daranno un premio in diamanti o un aumento in danari, sì. Ha lasciato là il bottino, ma... Non là, ma là il bottino. Lo ha lasciato là. Chissà quanto vale tutta quella roba. 1.000 milioni di euro. 1.000 milioni. E l'ha lasciato là. È buio. È notte. Siamo soli. Non c'è visto nessuno. Non c'è nessuno. Nessuno. Siamo solo noi. Solo noi. Ma che ci possiamo fare noi con 1.000 milioni di euro? Non lo so. No, è troppo. E poi non possiamo andare a fare i guardiani notturni, perché poi il giorno dopo noi dobbiamo andare a scuola, finisce che ci addormentiamo in classe. Io sul banco dormo benissimo, ma benissimo proprio. E tu, seppur non vai più a scuola, mi sa che non ti pagano più. Sì, però, coi soldi che ci hanno dato, perché abbiamo fatto scappare i ladri, noi ci andiamo a comprare 3 paia di scarpe per te, 3 come Shu. Ma tu che altro 3. Sai fare? Se non ti pagano più, tu che altro sai fare? E poi, coi soldi che ci hanno dato, io vado dal parrucchiere e mi faccio la tinta e le unghie, mani e piedi, sì, mani e piedi. E compriamo il Game Boy? No. Sì, il Game Boy. 3, come Shu, non si discute. 3, 3. Sì, 3. E ci compriamo pure la SUV con la polacca dentro, che a Ciullo viene a prendere a scuola la SUV con la polacca. No, la SUV con la polacca no, fa cafone, fa arricchito, no. Ma Shu abita lontano, non ci sono pullman metropolitano, perciò c'è la SUV con la polacca che lo viene a prendere. E non c'era una scuola più vicina a Shu dove fare sfoggio di tutte ste polacche e queste SUV? Sì, ma è stato bocciato. Vedi? Che cosa? Lo vedi? Che cosa? Perlomeno, perché Shu ha tutte le SUV, le polacche e tutti i giochi inutili di questo mondo, però è stupido. Ma pure io. No, tu no. Fai la radice quadrata di 74, tu? 8,22,24,52,7, ma tu Bravo. Sempre queste mi chiedi. Questo lo sa fare Shu? No. No, e invece tu non sei stupido, tu sei particolare, Shu è stupido. Ma Shu non è stupido, no. Gli è morta la sorellina mentre andava a scuola, mentre attraversava la strada, una moto l'ha alzata in aria. E lui per un anno non è voluto andare più a scuola perché aveva paura che pure a lui le moto, le macchine lo alzavano in aria. Me lo dici per farmi stare male? E che ci guadagno io, è così. Una brutta cosa l'invidia, inutile. Io sto diventando invidiosa e inutile. Lo sai che non è vero che la gente quando c'ha meno soldi rimane tale e quale? Si incattivisce, si avvelena, diventa brutta. Io sono brutta, guardami, sono brutta. No. Sono un po' brutta. Tu No. Non mi devi stare a sentire quando parlo, devi tappare le orecchie. Lui non vuole parlare più, non parla più. Sta muto, non vuole studiare. Però con me parla, ma... Lo possiamo invitare a mangiare a casa nostra? Adesso? Chiamammolo, adesso chiamammolo. No, adesso. Ma perché è brutta casa nostra? No, ma perché ci sta il guardiano notturno che sta dormendo. Non so che cosa farvi da mangiare. E poi ce la faccio. Ma lui non se ne importa di mangiare, ma gliel'ho detto che siamo poveri. Che hai detto tu? Per questo ci fa l'offerta il prezzo tuo e il prezzo mio. Ma chi gli ha detto? Questo qui chi lo conosce? Ma come ti permetti? Ma che vai dicendo in giro che siamo poveri? Tu ma me l'hai detto. Ma che me l'ho detto? Hai detto non siamo disgraziati, ma siamo poveri. Ma che significa? Stavo parlando con te, mica lo vado a dire in giro, mica lo vado a raccontare a tutti quanti. Ma io gli ho detto che siamo poveri finché non muore la nonna. La nonna? Poi diventiamo ricchi. Tu sei impazzito? Tu vuoi far morire mia madre? No, guarda. Ma chi stai? No, guarda che io la nonna le voglio bene quasi quando voglio bene a te. Ah, meno male. Però è vecchia. E prima o poi ha da morire. Non ce l'ho. Allora noi diventiamo i proprietari della casa di Acciaroli che c'ha 3 stanze, 2 bagni e dal balcone della cucina si vede il mare. Tu non sei scemo, tu sei un mostro. Il mare, me l'ha detto la sorda. Chi? La sorda a Natale. Ah. Ha detto quanto è bella casa di vostra nonna che dal balcone della cucina si vede il mare. Quando muore me la compro io. Ma io non voglio vendere, maledetta sorda, ma come si permette? E tua nonna deve campare 100 anni, non si discute! Allora ci vuole ancora un sacco di tempo. Ida, la sorda, quella la professoressa, ma che vogliono da noi? Che vogliono, Adogna? E si può sapere queste 4 capere? E tu che vai dicendo a Ciù che noi siamo poveri? Noi non siamo poveri, vabbè, non siamo poveri. E tua madre ha 2 lauree e una specializzazione, questo non te lo devi dimenticare. Ma io non gli ho detto che siamo laurei. E ci mancava! A me di essere povero non me ne importa proprio, tanto io poi divento ricco. Vabbè, siamo poveri. Siamo poveri. Ma non lo dobbiamo dire in giro. No. Eh? Dignità. Dignità. Eh? Va bene. Dignità. Lo sai che ha detto tua nonna l'altro giorno per telefono? Eh? Lo sai che mi ha detto? No, che ha detto? Che si era sentita girare la testa e aveva paura di cadere con la testa per terra. Più ci pensava e più si metteva paura. E sai che ha pensato? Che ha pensato? Se muoio adesso non hanno neanche i soldi per farmi il funerale. E non è morta, hai visto? Siamo stati fortunati. Se non abbiamo mai i soldi per fare il funerale alla nonna, la nonna non può morire. No, lei non ha detto che no. L'ha detto che può morire, però può morire solo il 7 o l'8 del mese, 7, cioè l'8. Che ha avuto la pensione ma ancora non se l'è spesa, capito? Così con i soldi della sua pensione noi le possiamo fare il funerale, che poi le volevo dire, mamma, ma con i soldi della pensione tua, ma anche nella cacciottella dei fiammi, frate, potimmo mettere, ma poi non gliel'ho detto. Ma, e se non muore il 7-8 del mese e muore a fine mese, come facciamo? Deve campare 100 anni e basta. Il 7-8 e no a fine mese. Io sapevo in 12. Ma con nonno come avete fatto, ma? Ah, era bello. Bello, sì. Signorile. Un bello funerale, lo dicevano tutti quanti. Bello, sì. Quello aveva fatto tutto lui. Come avete fatto? Era stato previdente, si era messo i soldi da parte, era un uomo di altri tempi, come si dice, non ne fanno più, hanno buttato lo stampo. Lui si era fatto la cassetta e l'aveva messa nella borsa da medico, quella che usava per le visite a domicilio, l'aveva chiamata la sua cassetta d'insicurezza, perché non si sa mai, diceva lui. Quella insicurezza. Era una scatola di latta, sai quelle dove si mettevano i biscotti Mellin, vabbè, tutto non ne può ricordare. Lui ogni mese, dopo che era andato in pensione, ci metteva dentro 10.000 lire, tutti i mesi. Tutti i mesi. Non si fidava delle banche, era medico però, era un medico di paese, l'avevano pagato sempre più con i polli che con i soldi. I polli. Lui diceva, finché campo la cassetta non si tocca, quando muoio mi ci fate il funerale. E così è stato. Ma io so come il nonno, ci voglio pensare prima alle cose, me la faccio pure io la cassetta. No, non te la fai, si fa quando si è vecchio, sennò porta male. Ma io non me la voglio fare per il funerale, io me la voglio fare per conservare i soldi. Poi io li do giù, ci mettiamo in affari e ti porto io in pizzeria. Oh Gesù. Con giù. Sei contenta, ma? Oscar. Dimmi. Amore. Dimmi. Tu mi devi fare una promessa, va bene? Tu devi fare solo affari puliti, me lo devi promettere. Gli affari sono affari. Che significa gli affari sono affari? Che io devo pensare al bene mio, al bene tuo, al bene della famiglia. Certo, però senza fare male a nessuno, senza fare danni, eh? Sì. Tu non ti preoccupare. No, io mi preoccupo perché tu con questa capa particolare che tieni, tu non sai quello che ti possono far fare. Ti possono inguaiare, te va bene? Tu. Ti possono far fare cose di cui tu neanche hai idea, va te bene? Tu. No. Oscar, senti, tu mi fai una cortesia. Io Gocce non me ne voglio prendere più. Tu mi fai sta quieta. Lo vedi che tutti quanti oggi vogliono fare gli affari e fanno soltanto danni. Mandano in galera la gente, fanno imbrogli, fanno cose che per piacere, eh? Tu devi pensare a studiare, non li devi fare gli affari, ti devi stare quieto e mi fa stare quieto a me. Eh? Mm? Tu non ti preoccupare. Non mi piace la faccia che fai quando lo dici. Diventi brutto, sembri un diavolo. Se divento brutto pago, mi faccio la plastica e me la cambio la faccia. Così. Stai scherzando, eh? Stai scherzando? Non lo so. Vai a giocare, vai un po' a giocare. Ancora con questo fatto che dobbiamo giocare? Ancora. Ma non hai capito? No, ho capito, non vuoi sudare. Ma fanno male le scarpe. No, hai ragione, povero amore mio, hai ragione. Allora facciamo così. Adesso viene il caldo. Stammi a sentire. Ci andiamo a comprare le ciabatte, quelle sono aperte e costano di meno. Sì. Poi ci facciamo prestare una tenda e ce ne andiamo in vacanza solo io e te. Ce la facciamo prestare da giù. Pure la tenda, te ne show. Tre tende. Tre tende. Ma può venire pure lui con noi. Perché? Solo con me? Ti annoi? Abbastanza, vabbè. E allora offesa? Ci portiamo pure a Ciù, no? Ti non mi sono offesa, ma... no? Meno male. Ce ne possiamo tornare adesso a casa, ma... 5 minuti, dai, che così rispettiamo gli orari con il metronotte. Non è il metronotte. È un guardiano notturno. Vabbè, un guardiano la mattina notturno. Lavora al muro Berello. Sì. La moglie l'ha cacciata da casa perché gioca ai cavalli. Lui dice che l'ha cacciata non perché gioca ai cavalli, ma perché perde ai cavalli. Perché Oscar, se lui vinceva ai cavalli, non lo cacciava di casa. Io ti voglio tanto bene, però mo mi fa stare un poco quieto, te sta zitta. Allora fai così, dai. Facciamo così, 1, 2, 3. Mettiamoci qua. Vieni, verso di me. Non mi sento sicuro. La verità manchi, però non fa niente. Dai, aspetta, ferma, mi devo girare, se no facciamo cado. Spalla a spalla. Aspetta, spalla a spalla. Devo girarmi, se no cado. Bravo. Così. Così. Sì, appoggiati qua. E poi la testa sulla spalla mia. Bravo. Così. Ecco, bravo. E così dormi un pochettino, che facciamo che sei la bella addormentata, eh? Tu sei il principe. Io sono il principe. Ranocchio. Il principe, quella è un'altra. Vuoi dire che ti piglia a schiaffi? Dormi un poco, dormi. No, ma non voglio dormire, leggi un po'. A chi? A Leon Battista Alberti. Che ha fatto questo qua? Ha scritto di arte, di letteratura, di filosofia. E la madre non l'ha presa ammazzata? No. Era anche un grande architetto. Ma quando diventiamo ricchi e ti faccio costruire la villa, te la faccio costruire da lui, va bene? Sarebbe bello, ma è morto 5 secoli fa. Che ce ne importa? Ne troviamo un altro, tanto si trovano, no? Certo. Si trovano. Era ricco? Chi? Leon. No. Era povero? No, nemmeno povero. E come viveva allora? E come viveva? Viveva del suo lavoro, viveva. Ma non voglio dormire, voglio leggere io. Leggere tu? Sì. E leggi bene però allora, perché questa domani è l'ultima lezione. Aspetta, ma non alzati, di muovere, non di muovere, ma... Mi appoggio io. Sì, appoggiati tu. Qua. Leggi ad alta voce. Leggo qua? Sì, leggi là, tutto qua. L'Alberti... No, ad alta voce che sento solo io, però. L'Alberti non si accontenta di misurare e delineare lo spazio. Lo sente come una realtà fisica, come luce, penombra, atmosfera e colore. Oscar... Ti sto leggendo male? Non la voglio la villa. Va bene. Non mi interessa. Va bene. È il primo architetto... Non ci tengo proprio. Va bene. È il primo architetto capace di valutare il passaggio emozionale che va dalla luminosità... Sicura? Sicura. Abbassa la voce però, piano piano. Che va della luminosità... Dalla luminosità, ripeto. Dalla luminosità... Però piano piano. Sì. Dalla luminosità dell'esterno alla penombra dell'interno. Vado avanti. Vai avanti però piano. Il palazzo del Signore. Si inunda a dormo con questa storia proprio, guarda. deve esprimere equilibrio e proporzione e non imporsi con l'ostentazione dello sfarzo. L'architettura, dormi però. Abbassa voce tu, abbassa la voce. E l'arte devono raccontarci non la potenza, ma una concezione del mondo, della natura, della vita. Della vita. Bella la vita. Fine. Da capo.